Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Expo, le ammissioni di Gian Stefano Frigerio, i soldi li ho presi, dice, ma erano regalie. L'ex senatore Luigi Grillo ha deciso il GIP non va ai domiciliari ma resta in carcere. Il presidente del Consiglio regionale della Campania, arrestato con l'accusa di concussione, del nuovo centrodestra e candidato alle europee, avrebbe fatto pressioni per nomine nella ASL di Caserta. Ultimi fuochi di campagna elettorale, nuovo scontro tra Grillo e Renzi. Per il premier sono gli ultimi giorni di Pompei, dice il leader 5 Stelle, Berlusconi. Grillo è un assassino, record di ascolti per Vespa, che sarà in diretta con noi più avanti. La moglie di Matacena, Chiara Rizzo, è arrivata in Italia dopo l'estradizione. Lo stesso Matacena parla ai microfoni di Radio 24, mai avuto rapporti d'affari con Scajola. Dopo l'indagine aperta ieri su Booking ed Expedia, l'antitrust apre un fascicolo anche su TripAdvisor, sotto la lente le false recensioni. Tra poco sarà nostro ospite il presidente dell'autorità. E prima di aprire e andare alla cronaca giudiziaria, alla cronaca dalle indagini su Expo, un'ultima notizia battuta poco fa dalle agenzie, tra poco torneremo a parlare anche di questo, l'ex arbitro Gianluca Paparesta con la società FC Bari 1908 SRL si è aggiudicato l'asta per l'acquisto del ramo sportivo della fallita Associazione Sportiva Bari. Per 4,8 milioni è stata di Paparesta, dopo molti rilanci a colpi di 200.000 euro, l'ultimo offerta di acquisto, non si conoscono per ora gli imprenditori componenti l'accordata. Ci andremo tra un attimo, intanto vi ricordo come sempre i nostri contatti, il mio account Twitter se volete Simone Spezia, la nostra pagina Facebook, l'email effettogiorno@radio24.it. Iniziamo da Expo e da Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì Simone, ciao, buongiorno a te. A questo punto possiamo dire che in sostanza è quasi soltanto da Primo Greganti e da Luigi Grillo, tra i 7 che erano stati arrestati 10 giorni fa nell'inchiesta Expo, che non sono ancora arrivate ammissioni. L'ex compagno G ha fatto sapere che sta preparando un memoriale in carcere e l'ex senatore PDL, a cui il GIP ha negato i domiciliari o averli negati già anche ad altri coindagati, ha fino ad ora respinto ogni accusa. Gli altri invece in vario modo stanno raccontando, stanno giustificando e in parte stanno ammettendo le accuse contestate. Anche Gian Stefano Frigerio, infatti, l'ex parlamentare ADC, accusato di essere l'anello di congiunzione tra la cupa degli appalti Expo e parte del mondo politico, soprattutto quel mondo politico che faceva riferimento al centrodestra, ha ammesso infatti di aver preso soldi dagli imprenditori vicentino Enrico Maltauro, che è stato uno di quelli favoriti nelle varie gare d'appalto Expo, ma con la GIP ha giustificato questi soldi come regalie. Tutt'altra invece era stata la versione dello stesso Maltauro, che prima con il giudice Antezza ma poi soprattutto in un lunghissimo interrogatorio con IPM aveva ammesso di aver versato dei soldi perché quello era il sistema, aveva detto, perché quello era il modo di lavorare, cioè in modo esplicito aveva parlato di tangenti ed era stato soltanto, diciamo, l'ultimo in qualche modo ad ammettere le contestazioni, perché già prima Sergio Cattozzo, che nel pomeriggio tornerà di nuovo davanti ai PM, aveva spiegato i post-it che gli erano stati sequestrati con degli appunti, con cifre e iniziali, come un suo promemoria dei soldi che aveva ricevuto dallo stesso Maltauro. Raffaella, questo il quadro dal punto di vista delle indagini, e mentre invece per quanto riguarda la questione dello scontro in procura, oggi è una giornata importante, brevemente. Giornata importante perché si attende una prima decisione dal CSM, ci sono due commissioni, la prima e la settima, quella che si occupa dell'incompatibilità ambientale e dell'organizzazione della procura, che dovrebbero dare una propria versione rispetto allo scontro tra il procuratore capo Bruti Liberati e il suo aggiunto Alfredo Robledo, potrebbero però anche decidere di riaprire in parte l'istruttoria alla luce anche delle ultime documentazioni che lo stesso Robledo ha fatto ieri arrivare a Palazzo dei Marescialli. Grazie alla nostra Raffaella Calandra e vedremo come andranno le cose da questo lato. C'è intanto un'altra inchiesta, una nuova inchiesta che agita la politica ed è l'arresto, un arresto avvenuto in Campania. Sentiamo. Si era autosospeso dall'incarico di presidente del Consiglio regionale proprio per l'appuntamento elettorale, candidato alle europee con il nuovo centrodestra. Invece è finito agli arresti a pochi giorni dall'apertura dei seggi. Paolo Romano, nato a Napoli, residente a Capua, imprenditore edile e una carriera politica che comincia negli anni 90 in Forza Italia. Per lui l'accusa è di tentata concussione. Avrebbe fatto pressioni, sulla base di un presunto accordo politico, per far nominare il direttore sanitario e quello amministrativo dell'ASL di Caserta. Le pressioni, e secondo la procura a volte anche le minacce, sarebbero state esercitate su Paolo Menduni, attuale direttore dell'ASL in questione. Romano avrebbe anche tentato di costringerlo a revocare le nomine di dirigenti che Menduni avrebbe fatto senza seguire le sue indicazioni. È stato lo stesso Menduni a raccontare agli inquirenti le pressioni e le minacce subite per operare nomine gradite. Le sue dichiarazioni sono state confermate da altri dirigenti dell'ASL che ai magistrati hanno parlato di un clima ostile a Menduni, di forme di attacco e pressione del potere politico verso l'ASL mai viste in tanti anni. Altri elementi di prova sono emersi anche dalle intercettazioni telefoniche. Romano era preoccupato per la denuncia presentata da Menduni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di nomine nella sanità, stanno facendo discutere in queste ore le dichiarazioni, o meglio le parole pronunciate dall'assessore alla sanità della regione Lombardia, Mario Mantovani, che parlando con i suoi concittadini di Arconate dice: adesso per esempio nelle mie possibilità, perché voi me le avete consentite leggendomi in regione, anche di segnalare delle persone, ho bisogno di direttori generali, ho bisogno di persone, me lo chiedono anche allo stomatologico di Milano. Io come prima cosa mi viene da segnalare la gente di Arconate. Sta facendo discutere, ne parleremo proprio con lui più avanti in effetto giorno. L'altra inchiesta che sta scuotendo la politica in queste ore è la vicenda che ha portato all'arresto dell'ex ministro Claudio Scajola. È arrivata in Italia Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Matacena, che è stata estradata e in serata sarà nel carcere di Reggio Calabria. Questa mattina lo stesso Matacena è intervenuto ospite di Alessandro Milan in 24 Mattino, ascoltiamolo. Nel momento in cui io sono arrivato qui a Dubai nel tentativo di chiedere un asilo politico, come già fatto in Svizzera, sono stato arrestato e sono con passaporto ritirato dopo 40 giorni di carcere e in attesa che la pratica di estradizione richiesta dall'Italia venga definita. Non posso uscire dall'Emirato, sono bloccato qui, di fatto sono prigioniero del paese. Così Matacena, tutte inchieste naturalmente che gettano ulteriori ombre su questa campagna elettorale. Siamo agli ultimi colpi e l'atmosfera si scalda. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Simone. Tra piazze, apparizioni televisive si tira la volata finale di questa campagna elettorale. Oggi Renzi a Milano, tra poco a Bergamo, nel pomeriggio a Bari il Premier sceglie, però toni più pacati. Questa mattina si concentra sui contenuti, torna a parlare del fisco che dovrà essere più semplice al punto che in futuro si pagheranno le tasse con un SMS, poi la necessità di riformare la pubblica amministrazione per renderla più amichevole con un cambiamento che annuncia sarà poderoso. E poi guarda il voto di domenica. Un derby lo definisce tra chi evoca il terrore e chi pensa che le cose si possano cambiare anche in Europa. E proprio sull'Europa sentiamo un passaggio di Renzi. L'Europa non ha bisogno di chi dice noi scapperemo dall'Europa per andare dove? Noi usciamo dall'euro per fare le code ai bancomat? Per vedere saltare i mutui? No, non serve questo. Chiunque abbia un minimo di esperienza con le politiche economiche sa perfettamente che non è questo il nostro orizzonte. L'Europa è il nostro destino. E intanto Grillo fa il pieno di audience, ieri la puntata di Porta a Porta sfiora il 27% di share con più di 4 milioni di spettatori e forse anche di questo risultato l'ex comico questa mattina da Piazza Montecitorio per il Restitution Day torna a dire che il movimento vincerà, mentre per Renzi sono gli ultimi giorni di Pompei, a quel punto bisognerà andare a elezioni anticipate e Napolitano dovrà dimettersi. Allora sentiamo questo passaggio sul Quirinale. È il più grande voto politico che gli italiani possono dare, perché è una scelta veramente politica, o noi o loro, non c'è sta. Noi il gioco c'è di rifare un governo italiano, non c'è il governo italiano, non c'è il Parlamento, c'è un signore messo lì da nessuno. E da Forza Italia Italia alza i toni dello scontro, il leader di Forza Italia, appunto il leader Berlusconi, bersaglio è sempre Beppe Grillo, è un assassino, dice l'ex premier, ha ucciso 3 amici, è condannato per omicidio plurimo colposo, è un esperto sul non entrare in prigione e poi quando faceva i suoi spettacoli, dice Berlusconi, si faceva sempre pagare in nero e lo invita a questo, proprio su questo, ad un confronto in TV. E da noi è tutto. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi, che già citava il successo della puntata di Porta a Porta con ospite Grillo. Avremo più avanti, nel corso di Effetto Giorno, qua proprio Bruno Vespa in diretta con noi per raccontarci un po' quali sono state le sue sensazioni su questa serata. Intanto facciamo il punto su questa campagna elettorale. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Toni che continuano ad alzarsi, naturalmente, tra un Berlusconi che, come abbiamo visto, dà addirittura dell'assassino a Beppe Grillo, Grillo che per conto suo, insomma, sull'alzare i toni direi che è un maestro. Come la vedi? Ma la vedo che tutti sono impauriti, lo stesso Grillo si rende conto che se non ha un successo, data la sua, diciamo, non volontà di aderire a schemi politici collaudati, tutta la sua strategia consiste nel vincere le elezioni, vincerle sempre, e quindi per lui è fondamentale non retrocedere rispetto al 2013. Naturalmente per Renzi queste sono elezioni molto importanti, direi decisive, e per Berlusconi, Berlusconi alza i toni, dà dell'assassino a Grillo, su un fatto peraltro che era arcinoto, quindi il fatto che si sia ridotti adesso a usare questo argomento vuol dire che la paura di Forza Italia aumenta molto, perché il rischio di un travaso di voti a favore di Grillo è considerevole. Quindi ognuno ha la sua paura. Vedo che stamattina Renzi ha parlato di Europa e secondo me fa bene, perché nessuno parla di questa Europa per la quale noi dovremmo votare e tutti si accapigliano su questioni di politica interna, e con ciò però aumentando i rischi di un infortunio, aumentando i rischi che poi le elezioni possano determinare dei risultati imprevedibili. Certamente ne andrà di mezzo molta dei nostri equilibri di legislatura, molto del prossimo futuro e delle riforme, ma io credo che sia importante che l'opinione pubblica sappia che si vota soprattutto per il Parlamento europeo. Grazie intanto a Stefano Folli, che continueremo a sentire naturalmente nei prossimi giorni per un punto su questa campagna elettorale. Noi adesso parliamo di un altro argomento che è parzialmente entrato in campagna elettorale, ma ne parliamo per la cronaca, ossia l'immigrazione. Ci sono altri due barconi soccorsi. Due barche in legno, una tra i nava l'altra in avaria, senza alcuna dotazione di sicurezza e con un mare impetuoso. Avvistate dall'elicottero di bordo della fregata Grecale, sono state avvicinate dalle navi della Marina Militare, che ha subito avviato le operazioni di soccorso per i numerosi migranti a bordo. Prima la distribuzione dei salvagenti e poi il trasbordo sul Grecale, sul pattugliatore Foscari, reso possibile anche grazie all'assistenza fornita da alcuni mercantili. La precedenza è stata data agli oltre 100 bambini e alle molte donne presenti sulle navi. I soccorsi dovrebbero concludersi in giornata, andati avanti tutta la notte, erano stati interrotti per il maltempo, ma le navi non si erano comunque allontanate. Erika Magnello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questione quella dell'immigrazione, collegata naturalmente, lo abbiamo già raccontato ieri, alla situazione di caos completo che sta regnando in Libia. Per fare un punto ancora sulla Libia, Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione oggi, appunto? Beh, innanzitutto la situazione è questa, per completare anche l'informazione che viene data sull'immigrazione. Nel Sud Sudan, notizia viene data oggi dal New York Times, per la guerra civile ci potrebbero essere le prossime settimane 12 milioni di profughi. Di solito i sudanesi prendono la via della Libia per arrivare alle coste del Mediterraneo, quindi potete immaginarvi in una Libia già in caos cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane o mesi se continua la guerra nel Sud Sudan. Cioè, quando noi guardiamo la carta geografica e vediamo la Libia nel caos, dobbiamo subito immediatamente vedere che cosa c'è sotto la Libia. E sotto la Libia purtroppo c'è una fascia saheliana, stati falliti o semifalliti, che potrebbero portare a nuove problematiche sulle nostre coste. E questa è una parte della storia. L'altra parte della storia è questa del colpo di Stato di Khalifa Haftar, la transizione libica il capitolo più cruento di quelle primavere arabe fu segnato dalla fine di Gheddafi, come nell'Egitto di Abd al-Fattah al-Sisi è stata praticamente finita e si è sgretolata con la spallata che ha dato il generale Khalifa Haftar. Adesso si stanno consolidando i due campi, quello degli islamici, dei laici, sia a Bengasi che a Tripoli, e quello dei filo-islamici. Lo scioglimento del Parlamento potrebbe essere il segnale che forse potremmo arrivare a una nuova fase, forse anche un compromesso politico, se non ci sarà il rischio di un'altra guerra civile. In 30 secondi un commento, Alberto, è un'agenzia di poco fa. Allora, Renzi ha chiesto una maggiore presenza dell'Europa in Libia, abbiamo bisogno di un'Europa che se ne occupi, è arrivata un istante fa la risposta del portavoce di Catherine Ashton, l'alto rappresentante per gli esteri europeo. Dice: l'Europa ha già un ruolo molto attivo in Libia, stiamo facendo tutto il possibile. Ti senti di condividere? Mi sento di dire che la guerra delle parole non serve a nessuno. O qui si fanno dei fatti, sia da parte dell'Unione Europea che dell'Italia, oppure qui la Libia viene lasciata e abbandonata al suo destino, come è stata abbandonata al suo destino dopo il 2011 e il crollo di Gheddafi. Questa è la realtà, né più né meno. Grazie Alberto Negri del Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È scontro sulla Libia tra l'Europa e il Presidente del Consiglio Renzi, che chiede un maggiore intervento, una maggiore presenza di Bruxelles. Bruxelles che replica: stiamo facendo tutto il possibile. Sull'Expo ci sono le ammissioni di Gianstefano Frigerio. I soldi li ho presi, dice, ma erano regalie. Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, arrestato con l'accusa di concussione. Gli ultimi fuochi di campagna elettorale, un nuovo scontro tra Grillo e Renzi per il Premier, sono gli ultimi giorni di Pompei, dice il leader 5 Stelle. Saluto Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, buongiorno. Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. O per meglio dire l'autorità garante della concorrenza e del mercato, per essere proprio corretti. Allora, questa mattina avete annunciato l'apertura di un'indagine su TripAdvisor, come mai? La nostra ipotesi, si tratta solamente di un'indagine che poi appunto dovrà dimostrare se le nostre ipotesi sono fondate o meno, parte dall'idea che potrebbero esserci delle recensioni non veritiere. Noi sappiamo che con questi siti appunto il consumatore si muove sulla base delle recensioni di altri consumatori. Se queste recensioni non fossero tutte veritiere, ovviamente ci sarebbe un'informazione ingannevole. Cioè, i ristoratori che se le fanno da soli? Potrebbe anche essere, così come potrebbe essere che, insomma, perché si è parlato anche di una sorta di ricatto, no, da parte di utenti nei confronti dei ristoratori. Sì, potrebbe direi essere per vari motivi, da una parte appunto chi se ne fa da solo, se ne fa con soggetti compiacenti, dall'altro lato invece motivi di appunto in concorrenze sbagliate, concorrenze con armi non corrette, e a indurre a delle recensioni non corrispondenti al vero. Il problema è che un sito deve avere degli strumenti, dei meccanismi per evitare che le recensioni false possano passare. Tenga conto che tutto ciò esprime l'attenzione che l'antitrust dà al mondo di internet. Ecco, io proprio di questo volevo parlare anche con lei, perché ieri avete annunciato l'apertura di un'indagine su Booking e Expedia, diciamo così, insomma, quelli che consentono la prenotazione di viaggi online. Nei giorni scorsi un'istruttoria per pratica commerciale scorretta nei confronti di Google, iTunes, Amazon e Gameloft in merito al mercato dei giochi e soprattutto ai cosiddetti acquisti in app. Ci spiega un po' questa virata di attenzione, perché insomma c'è anche chi dice: signori, questa è roba nuova, aprire indagini su tutto questo è un po' andare contro la modernità, no? No, certamente noi siamo per la modernità e riteniamo che internet sia una risorsa fondamentale per l'economia, perché può creare crescita economica, per la partecipazione politica e per la creazione di nuovi legami sociali. Il punto è che proprio perché internet sia questo strumento fantastico in cui crediamo moltissimo, occorre evitare che in alcuni aspetti soggetti, che alcuni soggetti possano approfittarne. Cioè il consumatore va protetto sempre e comunque, ma proprio questo serve anche non solo al consumatore, ma allo sviluppo del mezzo, perché se abbiamo più fiducia nella rete, più soggetti la utilizzeranno e potrà crescere quindi la capacità della rete di essere fattore, da una parte di crescita economica, dall'altro di potrà fornire servizi innovativi e, perché no, potrà essere anche uno strumento importante di partecipazione politica. Senta, Presidente, un'ultima domanda, gliela devo fare, probabilmente ho il suo ruolo istituzionale, mi risponderà no comment, però ci provo. Insomma, in questi giorni a Milano grandissima polemica su un'altra applicazione internet, no? Che è Uber, che in realtà insomma, teoricamente sarebbe un incremento di concorrenza, per così dire. Avete una visione su questo? State insomma, analizzando la cosa? Allo Stato no, anche perché l'autorità maggiormente competente è l'autorità dei trasporti, però certamente dal punto di vista concorrenziale anche noi siamo investiti nella problematica, ma stiamo appena per analizzare, quindi dare un'indicazione sarebbe assolutamente prematuro. Ok, perfetto, quindi comunque la state, cioè ce l'avete sott'occhio, per così anche dire. Anche noi guardiamo sì tutte le evoluzioni e le innovazioni del mercato con grande favore, naturalmente, come diceva lei, allo sviluppo di internet, però capendo che l'internet non è il regno dell'anarchia, ma ha delle regole sempre a tutela dei consumatori. Grazie a Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, le auguro buona giornata, e non proprio a tutela dei consumatori, o meglio dei cittadini, è quello che sta uscendo in tema di Tasi. Gianni Trovati, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, grandissima confusione sotto il cielo, perché alcuni pagheranno la prima rata il 16 giugno, altri a quanto pare il 16 settembre, e tra l'altro c'è questo numero di combinazioni, no, stimato dalla Will, che è impressionante, 75.000 combinazioni possibili. Sì, mi sembra una stima ottimistica, nel senso che le modalità per pagare la IUC a conti fatti saranno sicuramente di più. Teniamo conto di questo semplice dato: l'anno scorso l'IMU, c'era solo l'IMU l'anno scorso, ha raggiunto la cifra record di 104.000 aliquote diverse nei comuni. Ora che gli elementi di combinazione si moltiplicano per due, perché all'IMU si aggiunge la Tasi, secondo me alla fine l'obiettivo di 150 o 200.000 aliquote diverse nella totalità dei comuni sarà facilmente raggiungibile. A questa pluralità di aliquote, anche grazie all'ultima semiproroga comunicata ieri sera dal Ministero dell'Economia, si aggiungono anche parecchie combinazioni per le date di pagamento. Un disastro. Era difficile fare peggio, ma c'è ancora speranza di ulteriormente complicare. Senti Gianni, ci dici, secondo te, che insomma sei un osservatore di queste cose ormai da anni, quante colpe hanno i comuni? Perché ieri abbiamo avuto ospite consuetamente su questi temi il responsabile finanza locale dell'ANCI, ma quanto in realtà ci sono le colpe dei comuni? Perché lui dice, insomma, ci sono una serie di comuni che dovevano sciogliere il consiglio comunale entro il 10 aprile, il 20 sono arrivate le ultime indicazioni sulla Tasi, e come potevano questi comuni? Beh, diciamo che il responsabile primo di questa situazione è una legislazione nazionale impazzita e schizofrenica, perché appunto le ultime indicazioni, ogni giorno cambia qualche cosa, per esempio anche il decreto casa che è stato appena approvato giusto ieri con la fiducia ha cambiato ulteriormente qualche regola dell'IMU. In più, i comuni, nessun comune oggi ha la minima idea di quali saranno i fondi a sua disposizione nel 2014, per una semplice ragione: il decreto IRPEF, quello del bonus degli 80 euro, prevede un nuovo capitolo di spending review, cioè di tagli ai comuni, ma l'assegnazione dei tagli comune per comune avverrà a giugno, quindi se tu comune non hai la minima idea di quanto puoi avere di, chiamiamoli trasferimenti, non sono più trasferimenti, ma insomma di fondi a tua disposizione, non sai quanto devi chiedere di tributi perché le tue entrate sono i fondi più i tributi. Se tu non sai i fondi, quanto chiedi di tributi? Se decidi subito, cosa fai? Alzi le aliquote al massimo per ripararti la sorpresa. Per mettere le mani avanti. Quindi in questa legislazione completamente impazzita e schizofrenica, poi scaricare le colpe dei comuni e dire i comuni devono deliberare, fa un po' ridere, soprattutto detto da persone che sono anche state sindaco, presidenti o cose del genere, certo, fino a poco fa. Anche perché poi 4.100 comuni su 8.100, quindi 50, qualcosa per cento, sono fermi, ma per legge, perché vanno al voto, perché vanno al voto al 25, ma anche quelli che non vanno al voto non hanno i dati chiave per costruire un bilancio. È vero che ci sono comuni che poi l'hanno fatto, perché per esempio ci sono comuni che stanno meglio, eccetera eccetera, però siccome il panorama dei comuni è molto variegato, se le regole di base sono così impazzite, è ovvio che poi succede quello che sta succedendo. Allora, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore e saluto Carlo Genta che mi ha raggiunto in studio. Ciao Simone, buongiorno. Dunque, è Papa Resta o chissà chi altro c'è dietro il nuovo proprietario del Bari? Sì, è Papa Resta perché lui è rappresentante di una cordata di cui ancora non si conoscono i componenti, però stamattina al terzo tentativo finalmente il Bari è stato assegnato 4,8 milioni di euro, erano state presentate 4 offerte. E rialzi a colpi di 200.000 euro comunque il Bari, che peraltro sta vivendo sul campo un momento magico, pazzesco, non so, figlio anche di questa situazione della fine dell'era Matarrese. Ieri record afflusso per la Serie B ad una partita, oltre 32.000 spettatori. Ebbene, oggi ho trovato un nuovo proprietario, la faccia è quella di Papa Resta. I componenti di questa cordata li scopriremo. Scopriremo anche se avrà fortune arbitrali nella prossima stagione. Sì. Comunque, tutta materia per tutti i convocati, in onda a partire dalle 14. Noi ci fermiamo, a tra un attimo c'è la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo con Bruno Vespa, protagonista della serata di ieri dell'intervista a Grillo, e con Mario Mantovani, assessore alla sanità della regione Lombardia, che da un video che gira ha promesso o ha fatto intuire che potrebbe fare qualche assunzione tra i suoi cittadini di Arconate proprio nella sanità lombarda. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Secondo il tabloid tedesco Bild, il Vaticano avrebbe aperto un'inchiesta sull'ex segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, per appropriazione indebita. Sarebbe sospettato di essersi appropriato di 15 milioni di euro da conti vaticani. Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali, abbiamo una delegazione a Tripoli che è attiva, stiamo facendo tutto il possibile. Così Bruxelles replica a Renzi, che chiedeva all'Europa una maggiore presenza proprio in Libia. Expo, ci sono le ammissioni di Gian Stefano Frigerio, i soldi li ho presi, dice, ma erano regalie. L'ex senatore Luigi Grillo ha deciso il GIP, non va ai domiciliari ma resta in carcere. È arrestato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, l'accusa è di concussione. È il momento della borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata abbastanza positiva, più 0,3% sul FTSE MIB, altrettanto sul FTSE OSHER, mentre è negativa il resto d'Europa. Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,02%, Londra meno 0,44%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai vanno così le cose? Ma guarda, Piazza Affari è passata una mattinata in altalena, così come le altre borse europee, adesso sta un po' allungando grazie ad alcuni titoli, fra cui bancari, A2A e Fiat. Il clima resta nervoso e prudente comunque in attesa di appuntamenti chiave come le elezioni europee del 25 maggio e l'incontro della BCE a inizio giugno. Per quanto riguarda le elezioni, la prudenza è dettata dai timori per le conseguenze che potrebbero avere nei diversi stati membri a livello di instabilità politica interna. Nel caso dell'Italia ne fanno le spese anche i BTP, con lo spread Italia-Germania arrivato a 190 punti, adesso sta scendendo leggermente in area 185. E grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 4.276.000 telespettatori, share del 26,8%. Bruno Vespa, buongiorno. Buongiorno. Contento, direi di sì, no? Beh, direi di sì. Abbiamo avuto punte vicine ai 5 milioni, che sono per quell'ora una cosa, cioè che è un pubblico da prima la prima serata, insomma, quindi onestamente sì, molto contento. Molto contento. Vorrei capire da te che impressione ti ha fatto, anche se sempre no, difficile da conduttore, lo dico per esperienza diretta, per così dire, no, avere poi la percezione di quello che si è visto da fuori. Vorrei sapere che impressione ti ha fatto Grillo là, in quel posto. Ma, insomma, intanto è stata una rimpatriata, perché appena entrato nel telefono ci davamo di lei. È appena entrato, voglio dire, siamo andati, siamo passati immediatamente al tu, come era anche abbastanza scontato, e il clima si è molto, cioè, è reso molto molto informale, ed è rimasto informale anche durante la conversazione, che è stata fatta in uno studio televisivo, può essere fatta tranquillamente al bar, voglio dire, insomma, quindi con tutte le cose io gli avrei detto al bar. Ti è sembrato un po' a disagio, cioè a un certo punto si è avuta sempre l'impressione che si volesse in realtà rivolgere al pubblico, no? Si girava da quella... È venuto per questo. È venuto per questo, insomma, per rivolgersi a un certo tipo di pubblico che non è quello delle piazze, che non è quello della rete, non è quello di internet, e che però tradizionalmente è una parte di quel pubblico che nelle elezioni politiche decide il vincitore, perché quel pubblico di indecisi, oscillanti, un po' qua, un po' là, che due volte ha fatto vincere Prodi e due volte Berlusconi, non dico porta a porta, voglio dirlo, no, questa presunzione, ma insomma quel tipo di pubblico è il pubblico più incerto, trasversale, mediamente superiore ai 50 anni, che è proprio il pubblico di cui Grillo ha bisogno, perché le piazze le riempie con i giovani, Indrete è un padre eterno, ma poi il voto decisivo, se mai ci sarà un voto decisivo per battere il Partito Democratico, viene proprio da quella fascia di persone, insomma. Senti, e secondo te è riuscito a conquistarlo questo pubblico, dall'impressione che hai avuto? Questo francamente non lo so. Cioè è riuscito quantomeno a parlarci? Parte, non mi posso mettere, questo non è nemmeno carino che lo dica, insomma. Devo dire che è stato un incontro tra due vecchi professionisti, lui ha fatto bene il suo mestiere, insomma, ecco. Lui ha fatto certamente bene il suo mestiere. Ti sei divertito però? Molto, molto, più di quanto non immaginassi. Io immaginavo un'intervista tranquilla, un'intervista vivace, ma insomma abbastanza tranquilla, e invece è stato uno show, voglio dire, merito suo, che ha fatto un show. A un certo punto io ho detto scusa, ma ho detto un'intervista, io ho detto no, io faccio il comizio, perché facevo il comizio a quel pubblico che lo segue sui comizi, e quindi era perfetto per lui, e devo dire anche perfetto per me, perché mi sono molto divertito. Grazie a Bruno Vespa, ti lasciamo al lavoro, buona giornata. Mario Mantovani, assessore alla sanità della Regione Lombardia e vicepresidente della Regione, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sta facendo discutere molto quest'audio, sentiamo. Trovavo tanti proposti di lavoro, adesso per esempio ho le mie disponibilità, perché voi me le avete consentite, eleggendomi in Regione Lombardia, anche di segnalare delle persone, ho bisogno di direttori generali, ho bisogno di persone che me lo chiedono, anche lo stomatologico di Milano lo sta chiedendo. Io, come prima cosa, mi viene a segnalare la gente di Abbonate. Allora, sta facendo molto discutere, e direi giustamente, Mantovani, no? Io non so se gli ascoltatori in radio, magari quelli in macchina, sono riusciti a sentire, il letterale è questo: ho nelle mie possibilità, perché voi me lo avete consentito eleggendomi in Regione Lombardia, anche di segnalare persone. Ho bisogno di direttori generali, ho bisogno di persone, me lo chiedono anche allo stomatologico di Milano, io come prima cosa mi viene da segnalare la gente di Arconate. Che cosa dice Mantovani? Ma dico che ho fatto il sindaco per 12 anni e che avevo addirittura istituito un ufficio in comune che segnalasse tutte le opportunità ai giovani arconatesi, tutte di qualsiasi genere, bandi, concorsi, opportunità di qualsiasi genere, anche perché io credo che i giovani debbano essere incoraggiati, sì, quindi segnalare, però ma non ho mai raccomandato nessuno. Però capisce che è una cosa diversa, insomma, no? Quello che sentiamo almeno in queste parole rispetto al rendere pubbliche le opportunità di lavoro per i giovani. È perché perché io credo che non sia un errore rendere pubbliche le opportunità di lavoro. No, no, assolutamente, non è, quello non è un problema, sono le frasi che abbiamo sentito che insomma sembrano dire, voi siete, come dire, i miei clientes per così dire. No, ma guardi, io dico che mi viene naturale segnalare anche persone di Arconate, cosa dico di male? Io faccio la politica in mezzo alla gente, io faccio la politica in mezzo alle persone, in mezzo ai bisogni delle persone, segnalare non è nessuno, non ha nessun valore, credo, di carattere, non è discutibile. Segnalare delle opportunità, credo, vuol dire incoraggiare, guardare lontano, sviluppare anche le ambizioni. Scusi, dei giovani. No, mi scusi, però, Mantovani, sì, da quello che abbiamo sentito e che abbiamo visto, lei non parla di segnalare le opportunità ai giovani, lei parla di segnalare persone di Arconate per posti di lavoro. Vuol dire segnalare delle opportunità, dei posti di lavoro che possono essere disponibili. Perché no? Uno fa il concorso, se ha le gambe cammina, se invece sono segnalazioni di enti dove non è previsto il concorso faranno le loro valutazioni. Io ripeto, non ho mai raccomandato nessuno in particolare. Però capisce, mi scusi assessore, sì, però lei capisce che se una persona riceve una segnalazione, per così dire, dall'assessore alla sanità. No, io segnalo alle persone interessate le opportunità, scusi, Io segnalo alle persone interessate che ci sono delle opportunità, ma credo che sia un dovere nei confronti di, abbiamo il 44% dei giovani che non lavora, di segnalare delle opportunità. Io non credo che voglia dire raccomandare o violare quelli che sono le leggi e le legittime norme che regolano i concorsi, piuttosto che altro. Mi permetto di insistere, scusi, no, perché il testo e quello che abbiamo sentito è questo, cioè, se l'italiano ha un senso, sì. Quando si dice segnalare, voi mi consentite di segnalare delle persone, e mi viene da segnalare la gente di Arconate, non è segnalare alla gente di Arconate i posti di lavoro, ma è segnalare gente di Arconate per posti di lavoro. Segnalare gente di Arconate di qualsiasi altra natura, per carità di Dio, ma ci mancherebbe. Io insisto che è stato estrapolato strumentalmente da un comizio locale, peraltro, dove si può anche sbagliare un'espressione, ma il mio pensiero è quello di segnalare delle opportunità. Se ho fatto in buona fede, guardi, se lei poi trova una persona segnalata in maniera anomala in qualsiasi luogo, lei non fa altro che richiamarmi in trasmissione, se ritiene, sì. e di farmi la paternità. Adesso dobbiamo vedere quanta gente di Arconate lavora nella sanità lombarda. Nessuno di Arconate lavora per la sanità lombarda. Lavorano perché hanno vinto i loro concorsi 10-15 anni fa, per carità di Dio. Abbiamo fior di infermiere, fior di medici, brava gente, persone che lavorano come di altri paesi, per carità. Io poi sono il primo degli eletti in Lombardia, tra tutti i partiti della Lombardia, perché faccio politica in mezzo alla gente. E segnalare delle persone delle opportunità non vuol dire raccomandare o violare qualche legge. Io vorrei che questo fosse assolutamente chiaro, anzi le dirò che facendo politica in mezzo alla gente mi capita tutti i giorni di avere richieste di gente povera, gente semplice, gente. Se ho delle opportunità, arriva un'azienda ad Arconate, deve assumere delle persone perché deve costruire un immobile, io mi permetto di segnalare delle persone di Arconate che hanno delle difficoltà. Ma qualcosa è sbagliato? Però, io non credo. Però segnalare un direttore generale, uno per un posto da direttore generale è un'altra cosa, no? No, segnalare un direttore generale vuol dire: guarda, ci sono delle opportunità, presentati, vai e confrontati. Se poi intanto i direttori generali hanno degli albi previsti, hanno tutto un meccanismo che sicuramente non può rappresentare quello, il senso che io ho detto. Ci sono anche delle strutture che non sono pubbliche, che vuol dire segnalare delle persone, vuol dire c'è un'opportunità, valuta, presentati, guarda avanti, trova coraggio. Questo è quello che penso io. Ripeto, però, se qualcuno mi ha frainteso o mi sono sbagliato, ovvio che chiedo scusa, perché siccome non è nella mia natura violare in alcun modo né i diritti di ciascuno né le leggi, vorrei che fosse questo assolutamente chiaro. Questa è la posizione di Mario Mantovani, assessore alla sanità della Regione Lombardia e vicepresidente della Regione. Grazie per essere stato con noi, per aver accettato, insomma, anche su una questione abbastanza scomoda. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. There is no such thing as too big to jail. No individual or company. Eric Holder, ministro della giustizia, che dà una notizia. Dice, beh, nessuno è troppo grande per non finire in prigione. Too big to jail. Ed è un giro di parole sul too big to fail, troppo grandi per fallire. Riguarda questa sua osservazione, questo gioco di parole, le banche, riguarda in particolare il Credit Suisse, che, come saprete dalle cronache, è stato multato per 2,6 miliardi di dollari, la multa fiscale più alta della storia americana. Credit Suisse era nel mirino degli inquirenti per aver aiutato cittadini americani a deludere e evadere il fisco, e dunque è stata portata davanti al banco degli accusati con un'accusa tra l'altro criminale che avrebbe potuto costringerla a rinunciare alla licenza di operare nel settore bancario negli Stati Uniti. Alla fine si è trovato un compromesso giuridico, l'accusa criminale resta, il riconoscimento di aver violato le leggi americane resta, ma Credit Suisse potrà continuare ad operare ovviamente dopo aver pagato questa multa straordinaria, enorme. Per darvi un'idea, stiamo parlando di quello che sarebbe una piccola manovra nel nostro contesto fiscale. Vi dà anche un'idea davvero delle dimensioni di queste istituzioni finanziarie, che sono ormai talmente grandi e controllano talmente tanti soldi da poter essere equiparate nelle loro attività e dimensioni a quelle di un governo. Well, first of all, I gotta give him credit, you know that. That embodies that old saying that consistency is the hobgoblin of little minds. Ecco, Bill Clinton che difende la moglie. Oggi, così, questa notizia che vi ho dato, che è capitata ieri sera, ieri in serata, era molto importante, molto significativa, perché segna un percorso. Ma oggi vorrei approfondire la nostra puntata con una questione che riguarda le donne in America. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa. Continuano a esserci lenti di ingrandimento su fenomeni che riguardano le donne, il loro ruolo nella società, la loro emancipazione, e riguardano in particolare Hillary Clinton e l'ex direttore del New York Times, Jill Abramson, di cui vi parlai appunto la settimana scorsa. Cominciamo con la Clinton. Cosa è successo? Beh, è successo che Karl Rove, grande stratega repubblicano degli anni di George W. Bush, è partito all'attacco dicendo che la Clinton, e lo ha ribadito tra l'altro ieri con un'uscita secondo me di cattivo gusto, quando ha detto che la Clinton secondo lui ha subito dei danni neurologici dopo l'incidente che ebbe un paio d'anni fa. Ci fu una caduta, batté la testa, finì in ospedale, poi però si è rimessa a posto, l'abbiamo vista, ed è in forma perfetta, almeno a giudicarla. Eppure queste accuse striscianti, queste insinuazioni, queste illazioni di Karl Rove hanno prodotto uno scontro mediatico fortissimo in America. Ieri sera ne parlavano tutti i programmi, nel corso del weekend ne hanno parlato i programmi della domenica, e la settimana scorsa ovviamente i giornali e gli opinionisti hanno ricamato chi pro e chi contro le dichiarazioni iniziali di Rove, e poi ieri è tornato all'attacco dicendo che la Clinton ha tuttora dei problemi neurologici e dunque non sarà in grado di fare il presidente degli Stati Uniti. Quindi siamo ormai in piena campagna elettorale. La risposta di Bill Clinton che vi ho fatto sentire è una risposta che prende in giro Rove, tratta queste accuse come delle cose assolutamente ridicole, prive di fondamento. Il presidente dei repubblicani ha detto, beh, questi attacchi sono leciti, perché McCain è stato attaccato per la sua età ed è stato attaccato per le sue condizioni di salute quando correva per la presidenza contro Barack Obama. Secondo me Hillary Clinton è in ottima forma, per quel che l'ho vista naturalmente. Secondo me entro un mese, come molti si aspettano, annuncerà la sua candidatura, ma siamo già in piena campagna elettorale, maggio 2014, per elezioni che si terranno nel novembre 2016. Sentiamo adesso Jill Abramson. It meant more to our father to see us deal with the setback. Un'altra donna sotto attacco, l'ex direttore del New York Times, l'avete sentita, sono andati ieri a Wake Forest, l'università americana dove doveva pronunciare un discorso di laurea, e sono andati 200 giornalisti americani perché era il suo primo intervento pubblico dopo questo licenziamento in tronco che lo stesso Carr, che è il media editor, l'esperto di media del New York Times, ha definito una cosa pensata male e gestita peggio. Ha scritto, ve lo cito, dice, beh, una cosa è fare dei pettegolezzi, lamentarsi, togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del proprio direttore. Questo succede da ogni parte, succede in ogni giornale, succede in ogni media. Un'altra cosa e decapitarla in pubblico come è stato fatto l'altro giorno dal nostro management. Questo va a onore ovviamente del New York Times, che concede che un articolo di questo genere sia pubblicato, ma vi dà il senso di dove sia la polemica. In sostanza si dice che la Abramson, solo perché era donna ma aveva, come dire, una personalità forte, è stata licenziata in tronco, in malo modo. E agli studenti che ha detto, ha scherzato, devo dire, è stata molto intelligente e molto saggia. Ha scherzato con i ragazzi, dice io sono un po' come voi. Voi adesso avete finito l'università, cercate un lavoro e anch'io dovrò cercarmi un lavoro perché avete visto che è successo. Ma devo dire, la sua frase più pregnante è stata quando ha raccontato di una telefonata, questo in apertura del discorso, che ha avuto da sua sorella. Dice, mi ha telefonato e mi ha detto: so che papà sarebbe fiero di te oggi come lo è stato quando sei diventata direttore del New York Times. Per nostro padre era più importante vederci rialzare dopo una battuta d'arresto che vederci gestire il successo. E dunque io dico a voi ragazzi che nella vostra gioventù avrete sicuramente sperimentato il fallimento, qualcuno che vi ha mollato, una cosa che volevate fare e non siete riusciti a fare, una lettera in cui vi dicevano che purtroppo non avevate superato un esame o che una vostra domanda di internship non era accolta. Bene, in quel momento l'importante è sempre rialzarsi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. C'è una novità, forse l'avrete vista anche questa un po' sui giornali, ma di fatto Michael Jackson è tornato virtualmente in vita per promuovere un suo disco postumo. Ormai i miracoli della tecnologia sono strepitosi. Cos'è successo? Sabato notte a Las Vegas, grazie a un ologramma per una performance durante i Billboard Music Awards, Michael Jackson è tornato e ha interpretato Slave to the Rhythm, una nuova canzone su cui lavorava alcuni anni fa, ma che è stata lanciata proprio in questi giorni, e dunque ve la proponiamo come se Michael Jackson fosse ancora fra noi. Slave to the Rhythm. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24. Come sempre, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, il mio account Twitter Simone Spezia, la nostra pagina Facebook. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.